tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Puntata di Ponte Radio di oggi, che realizziamo come Radio Eustachio, mandiamo in onda la registrazione di una parte di un incontro che si è svolto il 17 luglio allo spazio anarchico Larottino di Lecco. L'incontro, intitolato La diserzione possibile, verteva attorno a un confronto tra l'esperienza di lotta contro l'arruolamento negli anni 90 in Italia e l'attualità della diserzione della rintenza alla leva in Ucraina. La parte che mandiamo in onda adesso è la registrazione dell'intervento di un compagno ucraino che si trova in Europa e che racconta aggiornamenti di quello che i compagni suoi e le compagne sue stanno facendo in Ucraina e in Europa a sostegno dei disertori, della renitenza, e tratteggerà un po' lo scenario sociale che si sta dipanando in queste ore proprio nel paese dell'est. Farò un piccolo preambolo di introduzione per il compagno, appunto, da Kharkiv. A Torino da qualche tempo in alcuni ci stiamo appunto interrogando su questo fatto sociale totale nel quale siamo immersi, ovvero la guerra, e mi pare che appunto le indicazioni analitiche che già oltre 40 anni fa Alfredo Bonanno dava su questa inestricabile, diciamo, connessione tra la pace capitalistica e la guerra guerreggiata siano tuttora valide, e quindi che non ci sia una differenza qualitativa, diciamo, tra la situazione di guerra combattuta al fronte e lo sfruttamento, la repressione e la morte che lo Stato di per sé agisce anche al suo interno nella quotidianità, a partire appunto dalle morti sui posti di lavoro o delle persone che cercano di attraversarne i confini, e in questo senso diciamo che l'attuale fase di indistinzione tra civile e militare, in cui appunto saltano i confini tra pace e guerra, interno ed esterno, più che qualcosa di diciamo eccezionale, appare semplicemente come una fase di svelamento esplicito del fondamento del mondo guerra in cui viviamo. D'altra parte, questo oggi, secondo me, pone delle questioni ineludibili a chi con una lente di classe individui appunto nella diserzione, nell'insubordinazione e nella renitenza, oltre che nel sabotaggio, delle pratiche individuali e collettive storicamente importanti, quantomeno per gettare della sabbia degli ingranaggi della guerra. E quello che secondo me nella discussione, poi che spero si avvierà dopo, dovremmo discutere è che cosa significhi oggi disertare. Cito anch'io Riccardo Desta in questo testo La guerra e il suo rovescio del 91, che notava in prima battuta che la diserzione stricto sensu, anche nella sua forma estrema, riguarda esclusivamente il soldato che al massimo può ricevere appoggio e solidarietà dalla popolazione, ma oggi è la natura stessa del soldato ad essere cambiata, come sono cambiate le guerre, e non per caso quest'ultima, appunto nel 91, è stata definita operazione di polizia internazionale. Il soldato è divenuto sempre più professionista, spesso con buone capacità e conoscenze tecniche, come tende a diventare il suo omologo nazionale, il poliziotto. Quindi l'invito alla diserzione a militari assimilabili a poliziotti su scala mondiale sembra quasi un esercizio retorico. In realtà il conflitto attuale che si sta dispiegando in Ucraina e a cui lo Stato italiano sta attivamente partecipando, in parte rimette in discussione queste affermazioni nel momento in cui al suo interno si intrecciano diverse dimensioni, perché accanto alla guerra cibernetica c'è una forma di guerra invece più tradizionale, una guerra di trincea, una guerra di artiglieria, una guerra di attrito, per cui la carne da cannone è imprescindibile. Parliamo di un fronte di 1700 chilometri, peraltro proprio a maggio si è aperto di nuovo, come era stato all'inizio della guerra, un fronte proprio a Kharkiv o Kharkov, seconda che si dica in russo o in ucraino, e si sta parlando di un ulteriore fronte più a nord che verrà probabilmente aperto, per cui la strategia diciamo che è messa in campo in questa guerra è quella del dispiegamento di soldati sul fronte, e quindi è una ragione per cui assume un'evidente centralità e importanza proprio discutere dei fenomeni di diserzione e subordinazione che si stanno dando tanto sul suolo ucraino e russo quanto diciamo nelle nostre città e nei posti in cui viviamo, perché appunto lo Stato ucraino, nelle parole del suo ministro della difesa, ha esplicitamente richiesto assistenza agli stati dell'Europa occidentale nel rimandare indietro tutti gli uomini in età diciamo di leva. Quindi se la guerra comincia qui non è solo perché, come giustamente veniva ricordato anche nell'introduzione, l'industria e la logistica bellica di questo conflitto diciamo si dispiega negli stati occidentali, perché anche come nei testi dei compagni viene scritto, appunto l'industria bellica in Ucraina è diciamo marginale fondamentalmente, quindi qua Aleppo appunto, in particolare con la presenza della Fiocchi che funge da polverificio peraltro su entrambi i fronti della guerra, direi che la situazione è abbastanza emblematica. Ma la guerra comincia qui proprio anche perché ci sono uomini ucraini in età appunto arruolabili fondamentalmente, si parla di migliaia di persone che sono scappate dall'inizio della guerra e che si vogliono sottrarre a una mobilitazione che sta diventando sempre più forzata. Uomini tra i 18 e i 60 anni che appunto con la recente legge che è stata approvata in Ucraina sulla mobilitazione vengono ricattati in modi sempre più brutali, e tra l'altro in Ucraina stessa vengono rastrellati direttamente nelle strade. Si parla, un altro aspetto di cui appunto più tardi, cioè tra poco approfondiremo magari i dettagli, è quello dell'arruolamento di prigionieri in Ucraina, che tra l'altro erano coloro che molti di coloro che all'inizio pur di non andare a combattere hanno preferito farsi imprigionare, e adesso invece si parla di 15.000 diciamo prigionieri che verranno mandati al fronte. Ma per quanto appunto riguarda le nostre latitudini, questa legge sulla mobilitazione implica che chi diciamo non si presenta non manda i propri dati su questa piattaforma digitale unificata su cui segnalarsi fondamentalmente, non riceverà più servizi consolari e una serie di altre misure che arriveranno fino al blocco dei conti correnti probabilmente e quant'altro. Quindi è assolutamente imprescindibile tenere una, da un lato approfondire questa situazione e immaginare delle forme di solidarietà, insomma, perché molti stati peraltro hanno già, alcuni stati europei hanno proprio ufficialmente già dichiarato il loro appoggio nel appunto mandare le persone ucraine indietro, in particolare la Polonia, dove c'è anche un centro di addestramento di una milizia per ora volontaria ucraina fuori dal territorio ucraino, ma che potrebbe essere utilizzata anche per addestrare appunto rifugiati che invece forzatamente vengano obbligati al combattimento. Anche l'Estonia, se non sbaglio, e la Lituania hanno dichiarato che forniranno assistenza allo Stato ucraino. Lo Stato italiano appunto al momento non ha preso delle posizioni ufficiali, però sappiamo che appunto per quanto riguarda i servizi consolari la situazione è quella che ho descritto prima. E la mobilitazione totale peraltro penso che sia un aspetto molto significativo su cui riflettere, non si esplica solo nella questione del combattimento al fronte, anche se in questo conflitto specifico questa questione è cruciale, ma anche nella mobilitazione al lavoro, perché la questione ovviamente della guerra riguarda anche il processo lavorativo generale a cui siamo tutti chiamati. Come già negli anni 30 un pensatore come Ernest Jünger espresse lucidamente, laddove riferendosi al primo conflitto denominato mondiale scriveva che l'immagine stessa della guerra come azione armata cede a quella più vasta di un gigantesco processo lavorativo. Accanto agli eserciti che si scontrano sui campi di battaglia nascono i nuovi eserciti delle comunicazioni, del vettovagliamento, dell'industria militare, in generale l'esercito del lavoro. Nell'ultima fase dell'evoluzione finora percorsa, qualsiasi attività è almeno indirettamente collegata alla produzione bellica. E sappiamo che oggi questo riguarda attività anche che esulano, diciamo, dalla definizione formale di lavoro, ma che riguardano le nostre attività quotidiane, non fosse altro che attraverso l'estrazione dei dati. Lo Stato tedesco ha già dichiarato che è necessario che i rifugiati ucraini vengano impiegati nelle industrie, che tra l'altro sempre più sono industrie direttamente belliche, perché solamente una piccola percentuale dei rifugiati sta appunto lavorando. Al contempo lo Stato italiano, che da quando è stata istituita insomma questa emergenza ormai permanente anche rispetto a questo conflitto, ha garantito una protezione temporanea ai rifugiati ucraini, ha istituito un triplo livello giuridico fondamentalmente nei confronti della popolazione migrante, e quindi da un lato un'accoglienza speciale nei confronti degli ucraini, la cui gestione è assegnata alla protezione civile. D'altro canto il decreto flussi invece per altre braccia che appunto servono al padronato italiano, e poi un'espansione della detenzione amministrativa per chiunque non abbia documenti. Bene, anche su questo fronte la protezione temporanea, che adesso è stata prolungata fino a fine anno diciamo, è convertibile in permesso da lavoro, quindi anche qui c'è la ricerca comunque di una messa al lavoro forzata delle persone. E ricordiamoci anche che all'inizio di questa situazione, per esempio, ci fu un altro, secondo me, episodio abbastanza emblematico di questa questione della mobilitazione totale, la possibilità per infermieri e medici ucraini di andare a sostituire infermieri e medici italiani che si erano sottratti alla mobilitazione rispetto alla guerra al virus e quindi sospesi in quanto no Green Pass, e ci fu anche questo elemento, quindi sono tutte questioni secondo me che dobbiamo ricordare e insomma analizzare. Uno dei più recenti spostamenti di senso lo sta compiendo proprio questa posizione dei rifugiati ucraini in Italia, perché se nel 2022 venivano considerati profughi in questa narrazione, appunto in questa propaganda per cui l'Ucraina, ultimo baluardo della difesa dei valori occidentali, loro sono dei profughi veri, come se tra l'altro appunto altre persone non lo fossero, adesso anche i giornali di regime stanno iniziando a cambiare già da qualche mese, insomma, il regime distorsivo, parlando invece di migliaia di persone che si starebbero sottraendo al loro dovere civico di andare a difendere insomma lo Stato, e quindi sappiamo che insomma i cambiamenti spesso sono anche molto repentini sia a livello discorsivo che poi a livello di leggi e procedure che lo Stato può subitaneamente prendere per diciamo, raggiungere i suoi scopi, e quindi è assolutamente rilevante portarci attenzione. E da un punto di vista giuridico va ricordato che quando il problema degli ucraini era non voler andare in Donbass per ammazzare altri ucraini russofoni, il Tribunale di Bari, con un decreto del 2020, riconosceva lo status di rifugiato a un cittadino ucraino renitente alla leva. Però vedremo adesso invece a livello anche giurisprudenziale che cosa potrebbe succedere in base a questi cambiamenti successivi anche alla legge della mobilitazione totale ucraina. Quindi vanno immaginate delle pratiche di riconoscimento e solidarietà supra individuale ai renitenti che si trovano nelle nostre città. Dal punto di vista pratico, a queste latitudini che si può dare in una forma di lotta antistatale previa e preventiva rispetto all'arruolamento, è in questo senso che dovremmo ragionare. Io ritengo che rispetto all'intervento che possiamo immaginare su questo terreno, dovremmo tenere a mente tre questioni che per me sono cruciali. La prima è che l'Europa orientale è un grande rimosso interno ai discorsi sull'Europa, e di questo dobbiamo tenere conto nelle nostre analisi. In un articolo provocatorio che riprende una delle centrali domande renziane, intitolato «Dove siamo quando pensiamo in Europa dell'Est?», un critico decoloniale rumeno, Viliuti Cindelanu, riprende il tema della sfida epistemologica posta a chi voglia pensare e parlare dei confini più o meno invisibili ovest-est europei, che dopo l'89 e il 91 sono riarticolati attraverso l'instaurazione di uno specifico regime discorsivo sintetizzabile nel concetto di transizione, che può essere interpretato come un processo di colonizzazione interna allo spazio europeo, per cui il tempo locale orientale sarebbe logicamente in ritardo rispetto all'ora occidentale e non ci sarebbe alternativa rispetto al tentativo di ricorrere gli standard di sviluppo per l'appunto occidentali. La posizione culturale e materiale di luoghi interni all'Europa, che spesso abbiamo anche noi proiettato attraverso l'analisi di alcuni marxisti come semiperiferici, è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione per immaginare qualsiasi tipo di intervento. Non si tratta di reificare una dicotomia est-ovest in senso prioristico, ma di mettere in luce la frammentazione di uno spazio europeo che è attraversato da dinamiche sempre contese e per questo mai neutre. L'Europa orientale è un concetto che è stato di fatto inventato attraverso le narrazioni di intellettuali, letterati e viaggiatori dell'Europa occidentale, tra cui William Cox, che nei suoi diari di viaggio nell'inverno del 1784, mentre si sta spostando verso San Pietroburgo nell'attraversare il confine tra Prussia e Polonia, sente di aver lasciato completamente l'Europa e di essere tornato indietro di 10 secoli. Insomma, si tratta di rappresentazioni che contribuiscono a costruire un particolare sguardo rispetto a luoghi e popolazioni che vengono in questo modo distinte, circoscritte e che attraverso le caratterizzazioni che ne vengono date in particolare nei discorsi illuministi del XVII e XVIII secolo diventano oggetto di fatto di un processo di inferiorizzazione rispetto all'Europa occidentale. E quindi l'internazionalismo, secondo me, parte anche dalla capacità di rompere gli sguardi egemoni e adottarne altri che ci permettano un riconoscimento tra compagni segnati appunto da storie differenti. Ad esempio sull'invenzione del nazionalismo storico e del neonazionalismo ucraino, che è stato dall'inizio del conflitto NATO-Russia estremamente strumentalizzato. Cosa sappiamo e come ci poniamo? Nel 1848 gli ucraini o ruteni che vivevano nei territori dominati dalla corona austriaca e della Trans-Unter Repubblica Ungherese erano per lo più contadini analfabeti e semiservi che si sentivano accomunati dall'opposizione ai proprietari fondiari polacchi. L'antagonismo nazionale cavalcato dal clero greco-ortodosso appariva più come una forma fenomenica di antagonismo sociale. E saltando all'oggi, diciamo che il nazionalismo borghese ucraino degli ultimi 30 anni, come è stato scritto anche recentemente, ha spinto di fatto l'intera popolazione lavoratrice dell'Ucraina di qualunque origine etnica a investire del mercato globale del lavoro domestico ed extradomestico e della guerra imperialista, e quindi dovremmo dotarci di strumenti anche noi per non reificare, diciamo, delle narrazioni. Il secondo punto è che nel mettere in pratica una campagna di solidarietà nei confronti dei disertori e dei remitenti ucraini è necessario adottare uno sguardo di classe. Come scrivono i compagni di Kharkov, se il riferimento è alla prima guerra mondiale non è utilizzato solo da commentatori figli, pochi ricordano come la guerra finì, la guerra fu contrastata da lavoratori dei paesi belligeranti. E la pelle bianca e una maggiore libertà di movimento oggi occultano le gerarchie di bianchezza dei proletari e sottoproletari tutte interne all'Europa, ma noi dobbiamo ricordarci che il progetto di allargamento dell'UE, alla cui adesione lo Stato ucraino è oggi candidato, ha storicamente avuto la funzione di produrre un segmento intermobile della classe lavoratrice per i mercati occidentali. Dare risonanza agli scioperi operai in Ucraina nella logistica come nell'industria, tematizzare il rifiuto alla messa al lavoro dei profughi nelle nostre città è parte della lotta antimilitarista. Oltre a questo è importante mettere in luce la presenza di residenti rom, di cui poco o nulla si dice, e che anche queste latitudini, anche nel segmento di popolazione scappata, vengono sovente vessati e criminalizzati, tanto dal discorso di Stato quanto diffusamente a livello sociale, in quanto alterità interna e oscena nel moderno processo di costruzione statuale in Europa, reietti criminali e incivili, e, insomma, in antitesi rispetto agli approcci essenzialisti che sono volti a verificare l'esistenza di una natura, in qualche modo, rom, dobbiamo ricordarci che gli siciliani dell'Europa orientale tendono a vivere nelle campagne stagnanti o nei dintorni di città industriali di provincia che sono state colpite in modo eccezionalmente duro da processi di espropriazione della classe operaia. E attualmente in Ucraina la componente rom è un segmento della classe proletaria e sottoproletaria che è stata completamente espropriata per poi essere rietnicizzata proprio nel processo di costruzione dello spazio dell'Unione Europea, diventando nel discorso di Stato, là come qua, la quintessenza della class dangereuse. E quindi, insomma, sugli individui rom, gli stati europei sappiamo che non abbiano mai esitato a compiere le peggiori nefandezze, e di sicuro si tratta di un segmento di classe proletaria e sottoproletaria che è sicuramente refrattaria a morire appunto per lo Stato, come sta dimostrando fin dall'inizio del conflitto. Il terzo punto riguarda noi e tutti coloro che a queste latitudini ancora non sono chiamati all'arruolamento diretto. In questo senso valgono come attuali le conclusioni del ragionamento che in apertura ho citato di Riccardo Dezze, perché nella complessificazione e differenziazione sociale esistente solo una piccolissima porzione di società va in guerra, mentre l'intera società viene investita come paura, come clima, come spettacolo, come effetti economici, come invito alla partecipazione indiretta, eccetera. Paradossalmente, mentre un sempre minor numero di soggetti attivi viene coinvolto, tutti ne risultano implicati e costretti a schierarsi, non fosse altro che per la forza suggestiva e mediatica dello spettacolo. Allora l'invito alla diserzione deve gioco forza venire rivolto a tutti, ma disertare da che? Dette sostiene che la diserzione debba essere preventiva, nel senso di un rifiuto costante delle regole statali, della sottomissione ad esse, della delega alle istituzioni. E quindi è questa mobilitazione totale a cui siamo quotidianamente sottoposti che dobbiamo disertare, e la ricondizione di tutta la vita su questa specie bellica concepibile come configurante di una dimensione dominata dalla normalità della guerra che scorre nel corpo della collettività, che dobbiamo disertare. Sicuramente dall'epoca pandemica ha conosciuto un'accelerazione pervasiva nel tessuto sociale. Citando di nuovo un pensatore controverso come Junger, il lato tecnico della mobilitazione totale non è quello decisivo. Il suo principio, come il principio di ogni tecnica, sta più in profondità. Non bastano le analisi economiche, anche penetranti, che toccano solo aspetti essenziali del fenomeno. E se la mobilitazione totale è un atto con cui il complesso e ramificato pulsare della vita moderna viene convogliato in un sol colpo di leva nella grande energia bellica, allora mai come oggi è necessario stoccarne la corrente. Junger in particolare pensava al progresso come alla grande religione popolare del XIX secolo, attraverso cui diventa comprensibile la smisurata potenza del richiamo che con la sua efficacia poteva conquistare le masse alla causa della prima guerra mondiale, realizzando la parte decisiva, quella religiosa, della mobilitazione totale. Interroghiamoci su quale sia oggi il registro cultuale attraverso cui si dispiega e attecchisce la perpetua mobilitazione delle masse, e che spesso ha il tenore di quella più o meno cupa apatia evocata anche nel testo dei compagni di Assembly. La convivenza con la catastrofe e la religione della collassologia permanente sembrano le cifre di questa mobilitazione totale. Forse andrebbe ripreso un altro pensatore tedesco, Anders, nella sua tematizzazione dell'essenza della tecnica come ineluttabilità. Non solo ciò che si può fare e si deve fare, ma anche ciò che si deve fare è ineluttabile. Cosa può significare a questo punto disertare questo mandato? Su questo passerei la parola chiedendogli per prima cosa se ha voglia di presentare l'assemblea e il contesto di Kharkov. Так, ну, что такое ассамблея? Ассамблея – это контринформационный интернет-журнал, основанный в Харькове, вот, в втором крупнейшем городе Украины, на самом-самом востоке страны, в 2020 году. Вот, ну, с начала полномасштабной войны, 24 февраля 2020 года, вот, мы продолжаем писать про Харьков, вот, там, помогать по возможности людям, которые пытаются там как-то выживать. Вот. Ну и также, начиная с прошлого года, оказываем информационную помощь тем, кто не хочет воевать. Вот. Ну, как публикует эту информацию в общем доступе, так и давая частные консультации тем, кто нам пишет на нашу почту. Ну, в общем, примерно так. Ассамблея, diciamo, коллектива НАТО a Kharkov nel 2020, nei tempi diciamo pandemici, è una specie di sito blog che è molto locale sulla diciamo, regione di Kharkiv, su quel territorio lì, è un territorio principalmente russofono, e quindi è un blog che parla poi dall'inizio della guerra in Ucraina, affronta i tempi, ai temi legati appunto alla, inizialmente parlavano della diserzione degli atti di sabotaggio in Russia, quindi cosa di cui non si parlava da nessuna parte, e poi soprattutto di chi decide di disertare, dalle informazioni che si rivolge a loro, anche delle informazioni più logistiche, come si fa, quindi loro dando anche una critica molto del tessuto sociale di quello che succede principalmente molto nella regione loro di riferimento. Ну, немножко хочу поправить по поводу там прозвучало по поводу саботажа. Вот, ну, сразу скажу, что помогать россиянам возможности не имеем, потому что наш сайт заблокирован в России с начала 2022 года. И его невозможно открывать даже через VPN. Вот, а поэтому в основном к нам обращаются граждане Украины, живущие в Украине. Да, ну тут тоже есть вопрос, потому что формально как бы в Украине он не заблокирован, но не все могут открыть, иногда жалуются тоже, что не открывается. Cioè il loro sito in realtà viene usato dalla popolazione ucraina perché il loro sito è bloccato in Russia, quindi anche i desertori russi non potrebbero accedere sul loro sito per avere delle informazioni e quindi agiscono comunque sul territorio ucraino, nonostante parlassero anche molto quello che succede appunto. Per iniziare, se hai voglia di darci un contesto generale dell'attuale fase, diciamo, della guerra, magari partendo proprio dal contesto locale di Kharkiv e la questione dei blackout. Kharkiv è un tipico città d'Europa, находящийся там недалеко от окопов Первой мировой. То есть повсеместные облавы на улицах. Ну да, повсеместные облавы, говорю. Ну, обстрелы там почти каждый день. Облавы, может, говорить, да. Обстрелы, ну, в основном там по военным и инфраструктурным объектам, реже по предприятиям, ну, по факту, когда туда попадают. Отключение света там, по полдня зачастую, начиная с 22 марта этого года. После того, как была уничтожена ТЭЦ-5, генерирующая 95% электроэнергии полностью уничтожена. Ну, что еще? Производство и транспорт останавливаются из-за отсутствия рабочей силы. На войне, как на войне. La città di Kharkiv, diciamo, ad oggi è una città che viene bombardata, soprattutto i luoghi più strategici, è una città che agli continui blackout e soprattutto è una città dove principalmente gli uomini vengono presi per la strada, cioè per strada, per essere mobilitati, quindi la situazione diciamo abbastanza tesa al momento. E per quanto riguarda diciamo il lato più dell'economia, dell'industria di cui vivo la città ora, ovviamente anche come il resto di altre regioni in Ucraina c'è un calo legato al fatto che appunto chi viene mobilitato e poi appunto sono tutti dei lavoratori sottratti dal luogo di lavoro. Da, начиная с сентября 2022 года линия фронта откатилась с Кузнодара и Харькова к российской границе, то есть 30 км под город. 30 км да, и там оставалось до утра 10 мая этого года, когда российские войска перешли наступление с западной границы, и теперь она остановилась за 20 км. То есть опять падет фронта, но уже ближе к городу. Sì, in questo momento Kharkiv, se qualche mese fa, ancora a maggio, si trovava a 30 km dal confine, diciamo, delle trincee che la dividono dall'esercito russo, ora si trova praticamente a 20 km, quindi diciamo, si sta sempre avvicinando, diciamo, ai confini della città. Соответственно, приближение линии фронта резко усилило обстрелы города с 10 мая по начало этой недели в Харькове и области российских обстрелов погибли 128 гражданских, включая 4 детей, и 178 были ранены, в том числе 42 ребенка. В свою очередь украинские ракеты и дроны летят на приграничные районы Белгородской области, где у половины Харькова есть также родные, и, соответственно, также гибнет мирное население. Diciamo più un aggiornamento così che fa stare legato appunto all'ultima settimana di bombardamenti e quindi di vittime civili che questa cosa continua a produrre e che appunto lui cita dei numeri di 128 persone civili, bambini e tutto, e dall'altro lato, dal lato ucraino, avviene il bombardamento della regione di Belgorod, della città di Belgorod, che è già il lato russo, dove cosa succede? Che molte persone di Kharkiv della regione hanno lì parenti, e quindi è come se avvenisse in qualche modo un bombardamento reciproco anche di persone legate tra di loro. Sì, se voglio di entrare nel merito su questa questione della indisponibilità generale alla guerra fin dall'inizio del conflitto, non puoi entrare nel merito. Ma no, non lo so perché non si è uscito prossimo. Ci si spostiva, можно ли перейти к вопросу тех, кто пытается избежать мобилизации? Именно, в общем-то, в силу такого географического положения нашего города, который уже полтора года находится практически на линии фронта, да, мы внимательно слежим, что происходит в армиях обоих сторон, вот, ну, в общем-то, хотим, чтобы они перестали друг друга стрелять и разошлись с оружием кто куда. Вопрос в том, как происходит избежание... Да, наживай. Sì, loro come Assadi stanno seguendo appunto chi in Ucraina e dall'altro lato cerca di evadere e appunto di disertare la guerra e ora ci parlerà in maniera più approfondita. Ah, это, конечно, хорошо, но лучше всего в жернова армии вообще не попадать, потому что если ты уже туда попал, то ну, да, намного-намного сложнее будет ее покинуть. Вот. Поэтому ну, надо, прежде всего, саботировать поставки мяса на этот конвейер. И ну, я, например, смог туда не попасть, да, когда это было еще делать легче, чем сейчас. Вот. Ну, и, что-то, помогаю это делать другим, с нашей командой. Lui a sua volta è riuscito appunto a evitare di essere mobilitato e quello che fanno ora è ad aiutare gli altri appunto a scappare, ad evadere. e per non essere la carne da cannone per il stato ucraino e per non essere mobilitati. Se ha voglia di parlarci della legge sulla mobilitazione totale e anche sulla legge riguardo alla diserzione che è attualmente in discussione. Nuovo Teraskrad o Zakonia mobilizacije i o novom projektu zakona koji je связан s дезертирством. Да, конечно. Ну, это тотально, это понимать не буквально, потому что есть существо категории элит, которые в армии никогда не попадут и мобилизованы не будут. То есть это представители власти и связано с ними бизнеса. Mm-hmm. По тотальности надо понимать то, что фактически с этим законом страна разделилась на два класса, mm-hmm. На два лагеря. Mm-hmm. Те, кто воют, и те, кого воют. Dire la mobilitazione totale in qualche modo è anche errato, perché appunto la mobilitazione c'è, è totale, ma c'è chi appunto non viene mobilitato, che è diciamo la parte più che governa questa guerra, e quindi ci sono sicuramente categorie che non cadono sotto la mobilitazione totale, e con questa legge sembra che c'è stata una divisione di chi fa la caccia ai disertori e chi è un disertore, quindi una linea netta di presa di posizione. Этот закон был принят 11 апреля и вступил в силу 16 мая. Основное положение то, что был установлен двухмесячный срок для абсолютно всех мужчин возраста 18-60 лет, независимо от того, могут они подлежать ли они призыву или нет, на обновление военно-учетных данных или постановку на воинский учет. Mm. Под угрозой, прежде всего, огромных штрафов от 17 до 22,5 тысяч гривен. Mm. Ну, для сравнения, средняя зарплата в Украине в прошлом году была 17 400. Mm. E appunto questa legge sulla mobilitazione è entrata in vigore il 16 maggio cos'è che prevedeva è gli uomini dovevano appunto aggiornare i loro dati nei centri di reclutamento. A questo proposito appunto poi la legge prevede una specie di penalizzazione, che chi non lo fa a passare dei 60 giorni, che sono praticamente ieri, si attueranno una serie di punizioni, diciamo, a livello legale, che può essere sia inizialmente le multe di cui sta parlando, poi aggiungo qua perché appunto noi con uno scritto avevamo già contribuito alla interpretazione di questa legge, anche il ritiro della patente e la congelazione, appunto, congelamento dei conti bancari. E tutto questo avviene sia in presenza, quindi presentandosi nei centri di reclutamento, sia attraverso appunto creazione di queste nuove piattaforme che sono state. Una è, appunto, spero che ne parleremo, una si chiama Oberig, e l'altra è Riserva più. L'Oberig è un registro creato dallo Stato ucraino che ha già messo lì tutte le informazioni che ha. Riserva più è un'applicazione che si deve scaricare la persona per volontariamente mettere i suoi dati per essere appunto mobilitato. Штраф можно получить за большое количество вещей. Во-первых, за то, что ты не обновил данные до 18 июля. Mm. Во-вторых, за то, что ты обновил данные, но отказался явиться на медкомиссию. Mm. А медкомиссия это почти гарантированно означает, что на следующий день уедешь уже в учебную часть. Mm. Или даже если у тебя все в порядке с документами, но ты просто шел по улице без военного билета, и тебя остановила полиция. Mm. Le multe di cui parla appunto sono legate al mancato, alla mancata consegna dei propri dati, e, appunto, o anche semplicemente camminando per strada senza avere il biglietto, come si chiama? Sì, il biglietto di uno che ha consegnato i propri sì, il biglietto da riservista. Также, если тебя поймают на улице полицейский патруль, а у тебя нет военного учета на документе, то тебя принудительно отвезут в военкомат для постановки на банк еще до прохождения медкомиссии. Соответственно, если ты, если у тебя нет возможности купить себе отсрочку или бронь, или покинуть страну, единственным вариантом остается просто не выходить на улицу и жить как женщина по 20 калибров. Quello che stavo dicendo è che appunto nei casi in cui tu vieni fermato per strada vieni forzatamente portato nei centri di reclutamento dove ti viene fatto un esame medico per appurare la tua appunto la tua idoneità, esatto, al servizio militare, altrimenti appunto un'altra via è praticamente non uscire di casa e non attraversare le strade per cui tu, dove tu potresti essere rastrellato o portato via. Per сегодняшним данным Минобороны, количество обновивших данные на сегодняшний день, за эти два месяца, порядка 4,5 миллионов граждан. То есть примерно половина, не менее половины от принципов военнообязанных этот закон проигнорировали. Sì, ad oggi solo 4 milioni delle persone hanno aggiornato questi dati, quindi la maggior parte delle persone in qualche modo ha evitato questo periodo di mesi per farlo, quindi queste sono diciamo delle statistiche legate a questo. Capito che mi è imposto che non meno di половина мужского населения в Украине практически оказались в статусе нелегалов у себя в стране. То есть и теперь мы видим, что теперь для очень многих в Украине слово «нелегал» станет звучать гордо, как оно звучало в советское время, когда означало подпольщиков в Украине. Diciamo, questo porta alla percezione dell'illegalità che le persone sottoposte alla mobilitazione trovano nel proprio paese, nel proprio territorio, quindi sono illegali stando ancora appunto nelle città ucraine, quindi come se fossero appunto vivessero da illegali. Sì. Как пример, мы привести всеукраинский соцопрос центра Разумкова, проведенный в последнюю неделю июня, там был вопрос. Считаете ли вы, что быть уклонистом во время войны стыдно? 46% ответили нет, 29% да, и еще около четверти не определились. Фактически, то есть, наверное, побоялись выбрать первый вариант, да, нет. Вот. Но это меняется, изначально это было не так. Сейчас так. И причем среди этих 29% ответивших, что это стыдно, там большинство складываются пенсионеры, то есть люди в возрасте 60 и старше. Ora, secondo appunto delle statistiche di un centro di ricerca, se inizialmente definirsi una persona reticente che evade dal reclutamento fosse una cosa che non si diceva apertamente, ora sta cambiando diciamo la visione, quindi molti più uomini non lo vedono più come un fatto di vergogna, ma invece riescono a dichiararlo che sono reticenti, che appunto sono dei disertori. Solo 29% di questa statistica qua, lui diceva, sono quelli della popolazione già più grande, più anziana, che invece dice che questa presa di posizione non dà il proprio consenso a questa cosa. E prima di arrivare alle pratiche di fuga dall'Ucraina, se invece rimanendo sul tema proprio di deserzione dei soldati, se ci parla delle pratiche di diserzione al fronte, sia lato ucraino che lato russo, e i differenti regimi di confine che attualmente ci sono sui due lati del fronte. Задал вопрос по поводу дезертирства, что касается Украины, что касается России и границ, о чем мы говорили. Дезертирство сначала с Украины. По данным на весну этого года, в Украине самовольно, с начала полномасштабной войны, самовольно покинули части около 100 тысяч человек, около 15 тысяч военных были привлечены к ответственности за дезертирство или неисполнение приказа. То есть, как видим, большинство è una donna mia, questa sua pièce la scrivete all'inizio. Scolto questo di nome, cioè dovevo... Ah, sto mandando così. E diciamo che ad oggi praticamente chi evade, appunto, chi diserta e chi diserta dalle unità sono 100.000 persone ad oggi di statistica, e ad oggi non ci sono, diciamo, secondo per la legge di mobilitazione, diciamo, non c'è ancora un reato di diserzione. Questa è una legge che ora è stata approvata in primo, cioè in prima la seduta, esatto, e quindi esiste solo un'evasione dalla propria unità, che ad oggi, parlando appunto con Stan, facendo le chiacchiere con lui, solo pochi vengono puniti per questo tipo di, cioè molti vengono in qualche modo lasciati, e molto spesso avviene quando la persona finisce in ospedale e da lì poi non torna più in trincea, oppure chiedendo dei permessi da cui non torna più. E poi, diciamo, gli articoli penali che ad oggi puniscono questa cosa sono, appunto, parlano di massimo di 3 anni di reclusione, quindi inizialmente molti preferivano di finire in carcere piuttosto che, per esempio, accettare di essere mobilitati, solo che poi la dinamica è cambiata quando hanno cominciato ad uscire anche parecchi video di torture nei carceri delle persone che hanno preso queste posizioni, come per dare un messaggio di: anche se non volete andare a combattere, anche in carcere non ve la passerete bene. Poi adesso anche i prigionieri. Sì, sì, e poi in più con la nuova legge, appunto, alla mobilitazione sono anche sottoposti chi sta in carcere. Capo Prince, mi fa che la sia nel disegno che poi vostra scelta idee svuote per le idee svuote. Mi fa che una fronte questa scelta non lo so. Sì, noi sottolineiamo questa cosa, che gli unici due modi, le unici due modalità è quando la persona appunto viene ricoverata in ospedale o appunto in permessi da cui non torna più. La fonte che quando voglio ne disertiro è qualcosa a caso sражаться. A caso, forse che buscavo per uso, adesso io non potevo воевать, делать, что со мной, что хотите. Spesso quello che succede, praticamente, è che le persone a un certo punto dicono: boh, non prendo più le armi, ma non accetto di essere un soldato. Ну, в частности, вот такой пример был в конце июня под Торецком, в Донецкой области, когда произошел локальный прорыв российских войск, из-за того, что 6 украинских батальонов отказались выполнять приказ. Один не отказался и понес огромные потери. Appunto, lui riporta un episodio legato alla zona di Donetsk, dove appunto c'erano 6 battaglioni ucraini, 5 dei quali hanno rifiutato di entrare a conflitto diretto, e appunto è quell'unico battaglione praticamente è stato... Да, он понес большие потери, и есть мнение, что в принципе эти 6 других таким образом практически помогли российской армии. Ну, насколько это правда, я судить не буду, это вопрос неоднозначный. Но тут важен сам факт, до чего власти довели людей, да, что эти 6 батальонов смотрели, как просто уничтожают их товарищей. Ну да, просто оставили их на лбу. Смотрели, как их убивают. Да. Sì, è che dice che per questo è stato questo capo, questo grazie per показать il famoso вами какие-то настроения, какой боевой дух. Боевой дух, касается того, что почему остальные батальоны смотрели, как убивают. Ну, это показать того, как боевой дух в армии, какие там процессы. E dice, boh, questo in qualche modo fa vedere come altri battaglioni hanno visto un unico battaglione essere massacrato e quindi dà un taglio che tipo di non so come dire, umore si respira, che tipo di apatia probabilmente appunto è respirabile. Это не первый такой случай уже, еще 2 года до этого эпизода Ассамблея сообщала с ссылкой нашего информатора, что несколько батальонов также отказались участвовать в контрнаступлении под Бахмутом. В последний раз на территории Украины такое происходило летом 2017 года во время июльского наступления Керенского, которое фактически стало... Ну, как знаменовало собой начало революционной ситуации. Потому что я не смогу это все перевести. Ну, 3 батальона летом прошлого года. Мы сообщали эксклюзивно, сложили оружие и отказались сейчас в штурме под Бахмутом. То есть это еще год назад, это регион. Да. Вот. Последний раз на территории Украины такие вещи происходили летом 2017 года. 2017. Да, вот время наступления Керенского. Вот. Ну, прологом каких событий это стало, мы все понимаем. Appunto, riporta un altro episodio in cui i battaglioni vicino a Bakhmut hanno rifiutato a combattere, che ricorda appunto l'estate del 2017 vicino a Kerensk. Se vuole dire qualcosa su queste cose dell'utilizzo del passaggio in Russia per dei disertori dei regimi di confine di cui ci parlava oggi. Есть информация о гражданских лицах, которые таким образом, ну, там через пункты в серой зоне, таким образом пытаются выйти. Ну, собственно, их участь печально, их, ну, из тех украинцев там встречают как потенциальных террористов и диверсантов, и ждет многие недели и даже месяцы допросов, там, содержания специальных в телефонных лагерях, значит, им разрешается покинуть Россию и уехать в Европу. Dice che in realtà non hanno subito dei casi così, anzi dice che chi sceglie questa via qua si sottopone a un maggiore pericolo di essere comunque trattenuto, sottoposto appunto a un come si dice? Sì, una chiacchiera portata, non so come mi vengono le parole, un interrogatorio prima di essere lasciati per poi uscire e andare in Europa. Все эти процессы в армии приводят к тому, что сейчас в украинском парламенте находится на рассмотрении законопроект о создании военной полиции в Украине, потому что существующая военная служба второго порядка в вооруженных силах, она, как видим, совершенно не справляется с таким наплывом, да, с таким потоком. Вот, 19 июня он был проголосован в первом чтении. Вот, ну, дальше. Закон называется полностью. Примерно так. E per questo appunto si ricollega al fatto che, siccome appunto ad oggi la direzione che chi attraversa, chi esce, chi abbandona l'unità, non c'è, diciamo, una legge fatta appositamente, e soprattutto non c'è chi un'entità che punisce, e per questo appunto è in procinto questa nuova legge che sarà proprio centrata su quello. Aggiungo qua che appunto rispetto a chi invece esce dai paesi come Romania, Polonia, Ungheria e Slovacchia, appunto molti di loro escono, vabbè, abbiamo appunto dopo un contributo di un compagno in Romania che racconta appunto com'è la situazione lì al confine. Ad oggi sembra la situazione più difficile quella che riguarda la Polonia, che appunto c'è un trattamento abbastanza severo da parte dei doganieri della polizia che sta ai confini, che rimanda direttamente gli uomini, e invece chi riesce lo fa attraverso principalmente Romania, Slovacchia e Ungheria. Ci sono già appunto le prime testimonianze delle prime morti nel fiume del Tibisco in Romania, che chi appunto durante soprattutto la stagione invernale attraversava il fiume e non ha raggiunto appunto l'altra sponda, e quindi queste sono poi le persone che arrivano poi nei paesi, magari continuano anche il loro percorso più avanti. No, invece se dice che на курсе украинского дезертирства можно еще отметить два таких случая, которые этим летом обсуждала, наверное, вся страна. Первый из них это в начале лета в городе Днепре, когда мобилизованного парня, который не явился в учебный центр, значит, его поймали на улице, погрузили в гусик, вот, но он из него вырвался там, под каким-то предлогом. И смог сбежать при помощи патруль. Это попало? Вот нет, это в Днепре было. А, Днепре. Да. Это на видео попалось. Очень резонансно было. Poi, appunto, parla degli alcuni episodi, appunto, per questo, di un ragazzo che è stato preso per strada per non essersi presentato a un campo, diciamo, dove venivano trattenute le persone mobilitate per l'insegnamento, per la formazione ad essere inseriti nell'esercito. Lui è stato prelevato per strada ed è poi stato liberato dal pullman dove è stato trattenuto dalle persone che erano per strada. Aggiungo che degli episodi così di strada, dove le persone giornalmente vengono private, ci sono molti video che girano nei gruppi di Telegram, filmati dove queste scene appunto quotidiane di repressione veramente per strada avviene, e appunto di quali degli alcuni parlano anche loro di assegni nei loro articoli. Io andrei avanti. Sì, prima di poi passare al lato di qua, gli chiederei ancora se ha voglia di dire due parole su invece gli scioperi sul lavoro, nella logistica in particolare, e che rilevanza hanno. Я бы не разговаривала уже о эпизодах отдельных, мы в целом рассказали о феномене, она сейчас спросила о нитинге. Ну, это такой знак, я считаю, надо сказать. Если надо сказать, скажем, но надо просто пошли. Ну, ладно, давай. Вопрос касается нитингов рабочих и то, о чем мы говорили, что возле Одессы были протесты рабочих, которые работают на... Да, ну ситуация с митингами, конечно, очень сложная. Сейчас, последние несколько дней, люди выходят на митинги на перекрытие дорог в нескольких областных центрах, таких как Полтава и Одесса, потому что там много дней нет света. Но это не рабочая борьба, это соседская. А водители, которые, например... А именно связано... Ну, по профессиональной принадлежности. Фактически, было два таких эпизода, таких массовых в последнее время. Первое, это 1 мая на севере Донецкой области в Грушковке забастовал хлебозавод, снабжающий север контролируемой Украиной части этого региона. И за многомесячный долгов по зарплате. Там был митинг, забастовка и митинг. А второе, это около сотни там дальнобойщиков перекрыли трассу и в Одессу, на выезде из Одессы. 16 мая это было день, когда закон мобилизации требовали предоставить им доллар. Жанец, когда это было? Это было. Первое. 1 мая. Sì, gli vengono in mente alcuni episodi, appunto, che sempre loro in maniera molto puntuale riporto dei loro articoli, legato appunto a un'azienda che produceva il pane per un territorio legato alla zona del nord del Donetsk, e per cui hanno protestato perché appunto in realtà non venissero pagati. Un'altra cosa che gli viene in mente è quello è successo il 1 maggio, un'altra cosa più recente è successo il 16 maggio, legato appunto ai camionisti, agli autisti che hanno bloccato un tratto di strada da Odessa. Era esattamente il giorno in cui è entrata in vigore questa legge sulla mobilitazione, per dire se ci mobilitate, come facciamo, chi è che si occuperà, diciamo, della logistica, di connessioni economiche, logistiche del paese. Ну, в целом, такая сейчас уличная поддержка связана или уже с программами отключения света, или с тем, что в каких-то селах, где очень такое сплоченное, организованное сообщество, люди выходят против действий мобилизаторов, там, или не пускают их машины, или требуют убрать блокпосты, там, чтобы больше никто не видел. Вот. А с вопросами там зарплат, труда и так далее, они сейчас, ну, в части нету, вот, два. Ну, даже один только случай, да, в области, вот, потому что такой рост стоимости жизни, любой повышенный зарплат очень быстро съедается ценами, налогами, тарифами. То есть в пределах одного предприятия эти вопросы решить невозможно. Poi appunto ad oggi molte proteste, molte uscite per strada, diciamo, manifestazioni di dissenso sono legate principalmente sia ai blackout continui che succedono nelle varie città, e poi un altro motivo è nelle città più piccole, nei villaggi, dove gli abitanti dei villaggi mettono davanti i loro corpi per impedire l'arrivo delle macchine, dei pullman che vengono a raccattare le persone, e quindi questi sono, diciamo, in qualche modo due livelli su cui si muove. Per quanto riguarda magari delle proteste legate più a, non lo so, alle fabbriche, legate agli stipendi, all'innalzamento del praticamente di costo di vita, perché nelle chiacchiere Rossanti si diceva che appunto è stato molto sentito questo cambiamento, legato poi comunque alla mancanza di forza lavoro, che poi è andata ad essere mobilitata, e quindi praticamente la richiesta è molto forte, e anche in qualche modo lo stipendio che viene offerto alle persone è quasi paragonabile a quello, no, europeo, però non ci sono le persone che poi andrebbero a lavorare. Forse adesso possiamo passare invece sulla questione dei remittenti e delle persone che, appunto, come già anticipavi, scappano attraverso varie forme, molte persone sono morte, cercando di attraversare il Tibisco, e qual è la situazione, se magari tu volevi parlarne più qua in Italia, anche rispetto invece a altri contesti. Abbiamo letto dal loro testo di alcune mobilitazioni in Irlanda e anche in Germania, che si stanno iniziando a dare con delle parole d'ordine più, appunto, liberal democratiche / umanitarie. Sì, appunto, una delle cose su cui ci eravamo soffermati, il fatto che appunto da l'avviare di questa nuova legge sulla mobilitazione c'è stato poi in qualche modo un invito ai vari consolati, alle ambasciate negli stati europei di non fornire i servizi agli uomini ucraini da 18 a 60 anni, che vuol dire che le persone non possono richiedere il passaporto, non possono richiedere nessun tipo di servizio, non avendo il passaporto o magari hanno un passaporto che è in scadenza, in qualche modo questa è l'idea, che poi sono obbligati a tornare in Ucraina perché non possono essere legalizzati sui territori dei vari paesi dove si trovano. E Una cosa che abbiamo visto per esempio sul sito del consolato di Milano, un consolato ucraino, loro a pochi giorni dall'attuazione della legge hanno fatto una dichiarazione che hanno detto che appunto i servizi loro non sono disponibili agli uomini, a meno che loro non vengono lì muniti dell'applicazione che conferma che loro hanno rinnovato i loro dati. Solo lì loro possono ricevere i servizi consolari. Se non è così, appunto non possono rivolgersi. E tutto ciò appunto si collega al fatto che chi per esempio ha attraversato, come vari casi che abbiamo, chi ha attraversato il confine legalmente, sono le persone che non hanno poi i timbri nei passaporti che gli impediscono di richiedere la protezione temporanea, che è la protezione temporanea rispetto ad altri status legati ad altre migrazioni presenti, è diciamo uno status tra virgolette più privilegiato, sia per i tempi di ottenimento dei documenti, perché la persona già il giorno stesso in cui si presenta in questura riceve una ricevuta e dopo un mese ha una tessera plastificata che gli permette di lavorare, di avere l'accesso ai servizi al servizio sanitario nazionale e tutto. Una persona invece che non ha un timbro non può accedere alla protezione temporanea, quindi l'unica cosa che può fare è richiedere la protezione internazionale, che ha dei tempi di comunque un po' più lunghi, e bisogna vedere se appunto la clausola della diserzione o altro viene poi nella commissione dell'ottenimento dello Stato se viene considerata come valida. E appunto nell'articolo dell'Assembly loro parlano appunto di alcune mobilitazioni per esempio come una a Dublino in Irlanda, dove gli uomini sono andati sotto il consolato con dei manifesti dicendo che appunto loro sono dei disertori e reclamando appunto la colpa che debba avere lo Stato ucraino rispetto alle morti nel fiume di Tibisco in Romania. E quindi appunto queste sono un po' una visuale ad oggi che si ha rispetto appunto agli uomini che soprattutto con questa nuova legge qua considerate tutte le, diciamo, le penalità e delle condanne penali che li aspettano, a cui si sottoporranno nei prossimi mesi, quindi questa cosa qua verrà sicuramente in qualche modo aumentata e si avrà un numero maggiore di persone che arrivano qua e alcuni ancora non disponibili a parlare del fatto che loro sono usciti appunto illegalmente, nascondendo questa cosa che appunto, come diceva, c'è ancora un senso di vergogna di aver abbandonato, cioè di essere usciti dall'Ucraina. E appunto perché questa nuova legge veramente mette molto in conflitto le persone per esempio che erano già in fronte e aspettavano questa nuova legge per la rotazione che sarebbe dovuta arrivare, per esempio, cosa che è stata promessa alle persone non è successo, per cui anche lì ci sono state inizialmente molte proteste legate al fatto che le persone che hanno fornito 36 mesi di servizio dovevano rimanere ancora, perché se fosse accettata la clausola di rotazione c'era la consapevolezza che le persone non sarebbero mai più tornate. Poi appunto questa nuova legge sia appunto l'inserimento della mobilitazione delle persone recluse nel carcere, sia anche la mobilitazione femminile, che appunto ancora non è, diciamo, in qualche modo pratica, ma è preclusa alle donne che di alcune professioni, per esempio già di uscire dall'Ucraina, non essere ancora mobilitate direttamente, ma non uscire dai confini dell'Ucraina. Lui diceva che avrebbe, prima l'abbiamo menzionato, ma poi abbiamo approfondito la questione della diserzione sul fronte russo. So if you want to talk about the Russian side of desertion. Ну, в частности, мы сотрудничаем с российской эмигрантской, трансатлантической организацией и телесом, Hope to the Force. которая оказывает помощь вот тем, кто обращается за этим делом, ну и вообще тем, кто не хочет служить в армии, частности и визитисты тоже. Вот, и как вот они нам рассказали, значит, сейчас. Как они нам рассказывали в конце весны, в момент нашего, наверное, последнего общения, вот, на протяжении всей весны был рост. Вот, если, например, в марте это было 299 консультаций и 32 раза оказания помощи, то за апрель 218 и 36. Вот, то есть... Статистика, да, ну да, то есть, да, то есть, в частности, причем рост по всем направлениям фронта, если, например, в начале года в основном к ним обращались с границы нашей области с Донбассом, то сейчас по всему фронту уже равномерно. Ну, сейчас, наконец, весны это было. Вот, то есть, ну вот, в частности, это летнее наступление российское, то есть вам еще дополнительно увеличить статистику. То есть рост происходит каждый месяц, даже если в отдельном месяце некоторое снижение. E loro poi sono in collaborazione, volevo menzionare questa cosa con un gruppo che si chiama Attraversate il Bosco, Andatevi a Bosco, che è un gruppo che fornisce appunto sostegno a chi, dal lato russo però, a chi decide di disertare, e quindi sia il supporto informativo sia appunto quasi un sostegno pratico di accompagnamento. E quindi lui parlava per esempio delle varie statistiche rispetto appunto al mese di marzo, in cui il numero di persone che si era rivolto lì era intorno appunto a 200 persone, poi nei mesi appunto cambia, è crescente, essenzialmente appunto era solo presente in alcune regioni, ora è sempre quasi uniforme rispetto a tutto il territorio. Вот, ну, конечно, те, кто обращается к интересам, это только верхушка айсберга, вот, а большинство российских дезертиров либо не знают эту организацию, либо не обращаются к ней. Вот, в целом, еще в конце декабря прошлого года, как мы подсчитали, дезертиров российской армии, ну, в той части российской армии, которая воюет в Украине, составляла там порядка 2-3%, то есть было сравнимо с потерями советской армии за 10 лет войны в Афганистане. Убитыми, потерями. Подожди, последний пункт, я не очень поняла, что... Уже на конец декабря прошлого года, как мы посчитали, потери российской армии дезертирами в Украине. Потери российской армии дезертирами, что значит? Что дезертировал? Ну, процент, да, дезертировал, это примерно соответствовал проценту потери советской армии, погибшими в Афганистане. Che appunto secondo i calcoli che sono stati fatti nel fine dell'anno scorso di dicembre che i numeri dei disertori fossero uguali alle perdite dell'esercito sovietico nella guerra di Afghanistan. Ну ещё тут также в завершение этой темы еще 5 копеек хочу докинуть. Вот, два таких очень ярких случая российского дезертирства за последнее время. Оба они связаны с Харьковом. Вот, ну вот, сейчас вам скажу. Первый из них, это в начале мая в Донецке. Российский младший сержант, артиллерист, родом из Харькова, убил на командном пункте 6 командиров, в том числе своего комбата. За свою маму пострадавший при обстреле Харькова. И еще с оружием, с тех пор ни о его смерти, ни о его задержании информации. E poi racconta un altro episodio appunto di un disertore che ha compiuto un'uccisione del proprio comandante in Donetsk, perché appunto sua madre è stata uccisa nei pressi di un attacco a Kharkiv, un episodio è citato nel sì. Вот. Ну, еще один случай буквально на днях, тоже с массовым расстрелом. Это был Селя Козин, когда в Белгородской области был беженец из Харьковска. Другой российский контрактник убил двоих сослуживцев, ранил еще одного и сбежал. По одним данным, он просто не хотел воевать и не было варианта дезертировать, а по другим данным, таким образом отомстил за унижение. Вот. Но 14 числа стало известно, что его поймали. Это где заново произошло? В селе Кузенка, Белгородской области. Окей, это дезертир, который нужно записать, извините. Ну, так, да, то есть отслужился и убежал. Un altro caso di un disertore che appunto ha ucciso i propri compagni del battaglione ed è scappato. По одним данным, он просто не хотел воевать, а по другим, из-за того, что его унижали. E secondo appunto alcuni è perché appunto voleva scappare e evadere, e secondo altri è perché appunto è stato preso di mira. E adesso lui diceva che ci teneva a parlare, che può anche essere questo, come dire, di spunto per poi aprire la discussione sulle azioni dirette contro questa mobilitazione forzata che sta avvenendo. Буквально на днях, в понедельник, мы презентовали на нашем сайте результаты полугодичного, даже больше случая, декабря прошлого года, исследования вот, об антивоенном прямом действии в Украине. Mm-hmm. Вот, и там, во-первых, Харьков находится в лидерах, один из лидеров. В том числе, кстати, и выродный город также, да, вышел с поджогом ТЦК, попыткой поджога ТЦК. Вот. Ну, главное, ну, для этого, что основной формой прямого действия это является или самооборона при посещении чиновницы, или помощь какому-то рандомному прохожему. Mm-hmm. То есть, либо поджог. Самое распространенное это именно физическое насилие. Mm-hmm. То есть, вот здесь ножи, баллончики, тяжелые предметы, надо живыми руками, значит, отправлять. Ну, это уже в любом случае, да. Что люди... sì, parla appunto di azioni dirette come appunto l'autodifesa da parte di chi viene appunto attaccato e prelevato per strada, quindi è l'uso anche di alcuni armi di autodifesa che appunto viene attuato, oppure appunto nominava anche gli episodi di incendiamento dei centri di reclutamento. Также случаются, хотя менее распространены, это атаки с помощью гранат или коктейлей Молотова против зданий или военного транспорта. Oppure appunto gli attacchi con delle bombe appunto artigianali, chiamiamole così, oppure appunto dei Molotov che vanno a colpire le strutture direttamente coinvolte nella mobilitazione appunto o dei autoveicoli Но большинство таких эпизодов, как мы установили, на самом деле совершаются, вероятно, по заказу российских вербовщиков через Telegram и .net. Поэтому они не вошли. Мы не считаем это антивоенным действием, то есть они не вошли в это исследование, а вошли только меньшая часть этих случаев, где, по всей видимости, люди действовали по своей инициативе и, в общем-то, то есть, вероятно, это будет действительно антивоенный. То есть, что значит это, что они не делали это самостоятельно, кто их вызывал? Через Телеграм или через Дотнет. Так, а кто, кому надо было на руку вербовать людей, чтобы они поджигали? ФСБ. Или иногда частные лица российские. Но в некоторых случаях, да, мы смогли установить, что, скорее всего, это именно антивоенное недовольство. То есть, потому что там люди четко обосновали, значит, мотивы и есть, и российские ресурсы об этом ничего не писали. Spesso, appunto, qualcuno faceva dichiarazioni a posteriori di questi atti, diciamo, di sabotaggio, e quindi si poteva tracciare veramente un'intenzione di un'azione del genere. In altri casi non si sa effettivamente a chi appartengono le azioni del genere. Ciao, Apro subito con questa notizia di 2 giorni fa, di cui magari avete già sentito, cioè il fatto che nella regione di Odessa 4 militari ucraini che hanno tentato di attraversare il confine tra l'Ucraina e la Repubblica Moldova sono stati presi, ma purtroppo uno di loro è stato ucciso, sparato a morte dalla polizia di frontiera ucraina. Beh, detto questo, per parlare un attimino della situazione dei rifugiati, ma soprattutto dei disertori e in generale di chi cerca e riesce a scappare dalla guerra e che cerca di arrivare in Romania. Parto subito con la premessa che è abbastanza difficile seguire questa realtà senza appoggiarsi alle notizie che vari giornali pubblicano in merito, perciò la realtà, almeno quella dei numeri, potrebbe essere diversa. Perché dico di questa difficoltà? Perché io, per esempio, non posso seguire in prima persona questa realtà, che sì, pur essendo nella zona nord della Romania, sono abbastanza lontano dalla regione di Maramureș. Maramureș, essendo quella zona del nord del paese in cui spesso arrivano queste persone dall'Ucraina attraversando il fiume Tisa e le montagne di quella zona. E alcuni giornali dicono che nei primi 5 mesi di quest'anno una 40 di persone sono riuscite ad arrivare sane e salve nella zona di Maramureș, di cui parlavo prima. Solo in Romania il numero di arrivi è raddoppiato, dicono, nei primi 4 mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono stati registrati quasi 2.500 uomini ucraini, raggiungendo un totale di 12.000 dall'inizio della guerra. Una 30 di uomini sono morti durante la traversata, purtroppo congelati in montagna o annegati nel fiume Tisa, Tibisco, che separa i due paesi, la Romania e l'Ucraina. Tra loro c'è chi riesce ad arrivare vivo in Romania, c'è anche qualche disertore vero e proprio, magari originario di Odessa, che è riuscito a salvarsi dopo aver trascorso un anno al fronte. Sempre i giornali raccontano di qualcuno che è riuscito ad attraversare il fiume arrivando nel un villaggio più vicino in Romania, dove l'intero gruppo con cui si trovava è stato aiutato dalla comunità locale. Nonostante la legislazione introdotta da Kiev, non vengono fatte domande e ricevono un permesso di protezione temporanea, dicono i giornali, con il diritto di rimanere nel paese e di lavorare. Infatti qualcuno trova un lavoro in Romania, altri invece, una volta ottenuti i documenti, si trasferiscono in altri paesi. Una cosa interessante che stavo leggendo è una dichiarazione del portavoce della polizia di frontiera ucraina che dice che le nuove misure di protezione al confine sono state aumentate con i sensori e droni che possono fermare fino a 7 persone su 10 prima che raggiungano il fiume. Un altro dato che esce fuori, che insomma non è neanche molto sorprendente, è il fatto che alcuni gruppi specializzati nel passato nel contrabbando di sigarette, una parentesi, in Romania c'è questo da parecchi anni, c'è questo fenomeno con cui insomma delle sigarette arrivano in Romania via via queste pratiche di contrabbando. Qualcuno è anche sparato a morte purtroppo dalla polizia di frontiera romena. Ci sono stati casi di questo tipo. Dicevo che questi gruppi di specializzati nel contrabbando di sigarette sono diventati anche guide per coloro che vogliono fuggire dalla mobilitazione ucraina. Si sta parlando di somme che vanno dai 3.000 ai 12.000 dollari a persona. Un altro aspetto importante su cui secondo me bisogna stare attenti riguardo un altro tipo di frontiera, cioè il razzismo. Leggevo alcuni articoli che parlano del fatto che dall'inizio della guerra dall'arrivo dei rifugiati in Romania ci sono stati casi di pura discriminazione nei confronti della minorità Rom, limitando loro l'accesso ai servizi rivolti in generale ai rifugiati. Le parole di alcuni gendarmi che dicono gli zingari sono gli stessi da ovunque essi arrivino, queste parole la dicono lunga sulla situazione con cui di nuovo purtroppo la popolazione rom si deve confrontare. Visto il grado alto di pregiudizio e razzismo in Romania esistente già prima della guerra, non sorprende affatto che succedano questi episodi. Ricordiamo anche che la versione integrale dell'incontro è disponibile nella sezione dedicata alla guerra sul sito di Radio Blackout. Коли вертав у рідний край херу, коли вертав у рідний край Кару, Кару, старе кохання зустрічає в руці мати, самі сьогодні вшив, дівчинка побачила, кинулась в крик, Джоні не впізнаю я. Да очі карі твої, Кару, Кару, да очі карі твої, Кару, Кару, да очі карі подів, звабливий погляд, вперше зустрів, такого покинув мене і синів. Джоні не впізнаю я. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, Кару, Кару, стріляй, рубай, рубай, стріляй, Кару, Кару, стріляй, рубай, рубай, стріляй, нас ворог не злоює. Той зараз коліка буде кугай, Джоні не впізнаю я. Женьки твої, Кару, Кару, на славіні женьки твої, Кару, Кару, кому ти ніженьку віддав, якщо в убій боком стрибав, ти своє вже відтанцював. Джоні не пізнаю я, нема руки, нема ноги, Кару, Кару, нема руки, нема ноги, Кару, Кару, нема руки, нема ноги, без сокій каліка, кому до снаги, сиди з капелюшком та гроші проси. Джоні не пізнаю я. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, Кару, Кару, стріляй, рубай, рубай, стріляй, Кару, Кару, стріляй, рубай, рубай, стріляй, нас скоро не звоює. Ти зараз каліка був, як бувай, Джоні не пізнаю я. добре, що прийшов додому Херу, Херу. Як добре, що прийшов додому Херу, Херу. Я радий, що прийшов додому живий з острова тіло, хоч тілом каліка та в серці вогонь. Джоні не впізнаю я. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, Херу, Херу. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, Херу, Херу. Стріляй, рубай, рубай, стріляй, нас ворог не збоює. Зараз каліка буде, чувай, Джоні не впізнаю.